attaccate, le ho fatto 30 anche, le altre appena più piccole le ho lasciate senza attaccare, e c'è un bisciù e le ho fatte con il coniglio io. Io le do al coniglio, in favella, la cacciatora. Ma ti dico, è uscito un bombo. E poi mi sono fatto anche l'antula sott'olio e ci ho messo due peperoncini in te. A mezz'ora già tassati due mesi. Mi vuole ribobbire a suonare l'incendio. Ma visto che la notte per la guerra che sta partita, che altro parte più giovedì, ma visto che ovvia, chi ci ha portato le altre cose, esce il fuoco giù, da Gattiano. Mamma mia, a mitragliatrice, non è possibile, che la sia, già lo sai il peperone cosa fa, no? Tutto quanto me lo pulito e me l'ho messo dentro una retina di quelle di patate e me l'ho appeso. E poi mi avevo salito la campagna del rosmarino, un paio di rami belli grandi, me l'ho messo qua nella terrazza a essiccare quando c'era il sole. Cioè, mezzo che c'è con la femmina, ho buttato una sera i pirelli. L'ho messo tutto un tegame, l'ho tutto passato, e adesso mi l'altro giorno ho finito, tutte le volte c'è il sole lo metteva a asciugarsi bene bene. E mi ha fatto pure un tegamino, ma grandetto, un chilo di roba sarà, di rosmarino secco, e me l'ho messo dentro quelle boccette che lo vendono, l'ho passato e l'ho messo dentro la boccetta, una di quelle. E così c'è anche il rosmarino. Ti dico di genere che ci ho messo quel coniglio anche il rosmarino, per il peperone, adesso è uscito, una bomba! Non mi posso immaginare che c'è una bomba, ma soprattutto a tutti, chiamami, figurati, che lui stesso lo riconosce che è una bomba. Ma io so che fa queste cose così lui, capito? Però con me si sta sempre lamentando, e dice mi fa male così, mi fa male là, e per forza se si mangia tutto questo benedio, guarda, poi non le basta un pezzo, ne mette uno intero, quello è il punto. Ma loro sono abituati e piacciono così bello rosso, bello piccante. Graziano, per quello che sei così rosso, guarda, come il peperone, dai dai! Non solo, ma l'ho recuperato. Guarda la cassetta del preziosimo. Mi ha tutto pulito, metto, lavato, poi gli vedi. Ha giubilato 3 trecce di aglio, mi ha messo tutto bruciato, tutto preparato, me l'ho tutto tritato, l'ho messo in barattoli. Poi ci ho messo anche il peperone, aglio, prosciutto e peperoncino. Allora sai cosa è? Così mi ha brutto un brumale vecchino. Una bomba, Giulio! Non può muoversi. Gesù Maria Giuseppe. L'allegria di tuo potere, diciamo. Mamma mia. Ciao Maria, intesa, non può muoversi. Ma infatti l'ha detto Rosi, te l'ha detto. Non ti posso cavare a pelle che ci cristiani. Sei paese in bandiera, sei in bandiera, dici. No, non voglio più la parte, non posso coccare la sua letto, se non posso coccare. Mamma mia, dopo grazie a aiuta, non è possibile, aspetta. Devi anche tu punto, ma... Guarda, metti quello che fanno dei pezzi, se la papà l'ha letto che tu pulirì. Allora, la ferma che ho fatto le melanzane alla parmigiana e mi ha preparato lo zucchetto a pacchi con un bavarone in mezzo. Se lo metti un po' di lì a cuscino, anche mi avevo mangiato le melanzane alla bicinella e mi avevo fatto a cuscino, boh, cosa strana. E mi ha detto, vai a fatti che tu cristiano che mi devo fare, io pari minuti. Ha detto, adesso faccio di loro cristiano. Fate un biglietto, due fette di chissà parmigiana, la ribolta, il mezzo panino, a pochetti se ti vedi mi fate lo tappo. Giù, ho trappato il vicino, e arrivo la forchetta, amici, Graziano. Gli affari di attacchi in piazza Edinburgh, che parla solo che le ci lo fumo lì, e lo fuoco ogni tanto. Mamma mia! È possibile! Allora, Tony, a che fai? Stiamo parlando di mitragliatrice e di fumo. Tony, non è acceso? No, ancora no. Adesso accende Tonino, Dio Maria. Adesso fa un po' entra Tonino. Tonino, è acceso? Ancora no, si vede le mie catene. Oi, grazie, non ti riprendi, no, oia. Allora sai che conosco la figlia di chi su che da me va a vedere in Nazzola, non la figlia, la nuora, la moglie del figlio. Che è di Mamoiata, di originale la moglie. E questa qui sono abitato parecchie volte quando gli facevo anche la moglie. In ogni pietanza ne ho carovalato con cucciarino, olio, per esempio aglio e peperoncino. In ogni pietanza si rubò e mi rubò pure due cucciarini. Ah, poi vedremo. Rosi, ma insomma, tuo marito è proprio è travagante quello fatto col bevarone. Vediamo se è acceso Tony. No, non ha acceso ancora. Ha detto che accendeva Giovanni, non è detto che è telefonato. Ha detto che adesso accendo, dice. Va bene. Avanti Giovanni. Lui non resiste a queste cose, magari dopo alla fine che si lamenta, capito? Però non lo lascia, tutti al momento che ci chiede, però da voi di domani fate mangia Biancura, lascia va, non ti darò la metà con me, guai, e gli dà ragione, grazie. Poi assistati lì, tipo una forchetta a filo, Graziano, meno male non ho bisogno di ammonista, di fatto queste cose, io è capace a voi avrei fatto il burro come ci avevi fatto altri uomini, che voglia la ricetta di Graziano, di camionisti. Oggi, ogni sera ti dà la ricetta di una cosa o dell'altra, hai capito? Ma via! Graziano, mi fai diventare tutti i camionisti mitragliatori, no? Dai, capiti? Non è possibile, beh, comunque c'è tanta gente che mangia le cose col peperone, a me non mi piace, la verità, io non lo sopporto, non le mangio cose col peperone, avevo cose piccanti, eccetera, non mi piace, la verità, sono come piloti, capito? Se mi danno una batta, ricotti me le mangio tranquillamente, ma roba piccante così, peperone, cose, no, assolutamente. Va bene, Tonino, ci sei? Buonasera Giulio, buonasera Don Giammaria e Graziano. Salutoni belli a tutti i circolari. Ciao Tonini, salutoni. Scusa se ti ho telefonato, ma siccome so che non c'è mai nessuno, per questo ti ho voluto avvisare che c'eravamo noi. Tutto lì, ci fa piacere ascoltarti. Avanti Giovanni per Torino. Brecca? Ok, registrante Brecche, buonasera, Torino è ben rientrato. C'è stato Brecche, avanti. Buonasera Gio Maria, questo è un altro bravo, Franco. Tra gli amici come mi senti che sto provando una vecchissima mantovana stata? Io troppo vicino, sei 9.35, sì, Bra, 9.35, Tonino che per lontano vede un po', Tonino sentito l'hai? Sì, l'ho sentito, non so se lui mi ascolta, comunque buonasera. Sì, ho capito, 9.25 per te, 9.30 per Gio Maria, Gio Maria non sono più vedo per prima, sono fuori stato. Ma si è sempre lo stesso cucchiaccio, no, Fra? No, negativo, sono a circa 10 chilometri dalla tua zona. Sta arrivando benissimo, non è potente radio, ma abbastanza chiara, buonissima. Vediamo un po' Giulio come ti ascolta, vai Giulio. Ok, ciao Fra, salutoni, mi ha raccontato dopo tanto tempo. Sì, infatti te lo volevo dire subito io, infatti se stai uscendo con la mantova 1, nella zona dove abiti tu, mi stai arrivando basso, ma hai già spiegato che sei lontano, allora tutto è comprensibile, ci mancherebbe. Ma comunque la radio è buonissima, non ci sono problemi. Santiago 5 qua a questo smitter, zona di punti, già lo sai, non c'è bisogno che te lo dica. Avanti ancora Fra. Sì, io sto andando bassissimo e con meno di 5 watt, quindi l'antenna è praticamente a terra. Benissimo, vuol dire che sto andando discretamente bene. Vi ringrazio per i rapporti, vi auguro la buona serata. Gio Marì, una buona domenica, un abbraccio. A presto, presentici, vi lascio al vostro questo. Buona serata ancora a tutti, vi ricordo di Gio Marì. Piacere sempre, è un piacere veramente, dopo tanto ci siamo sentiti. Buon proseguimento e buona domenica per domani a te e famiglia. Ok, vai Tony. Saluto i belli, è la prima volta che ti sento, buon correggi allora con tutto. Vai Giulio. Ok, ciao Franco, saluto io allora, se hai ancora bisogno di qualche ragguaglio non ci sono problemi, entra pure che te vogliamo. Avanti Graziano per Franco. Ciao Franco, buona domenica anche a te, buon proseguimento di serata, K. Gianmari, però io lo sentivo basso, non è basso, magari non è magari squillante sull'altro, però abbastanza chiara la radio e cosa vuoi per te? 5 passi è anche lontanino, capito? E evidentemente è più favorevole alla mia zona che alla tua, capito? Capa, che zona era lontano? Vabbè, non l'ho chiesto adesso, grazie, capito? Già lo sentivo però basso, per sentirlo dovevo alzarmi il volume, ce l'ho a 2, 95, insomma, già lo sentivo, e così, va bene, io, hai capito, e mi ne raccogliene l'arriva a domani in suo periodo. Ciao Tonino, mi, e poc'anzi non ti ho salutato, va bene, non sono entrato poco fa, e me l'ha fatto 5 quintali e mezzo. Per quello che eri impegnato, questo periodo, ma tutta l'hai raccolta? Ah? Se l'hai raccolta tutta? No, domani vado, perché ci sono rami alti che non arriviamo a scopura a canna, là sull'albero. Allora quelli li taglio, poi passo il rastrello dove abbiamo tagliato l'erba, che sotto ce n'è rimasta parecchia, e ne la raccogliamo. E magari un altro 2 quintali ne usciranno, penso, se non di più pure. Meglio così, e quest'anno se ne trovano. Nella zona di campagna mia è tutto pieno, ma stavo messo gli alberi, tutti i gatti, da quanto ne hanno, e su Maria Bede Ulive, che se sono sani quest'anno, è la provvista, ci facciamo la provvista, ora, vedi, io non ne ho, io ne ho uno, una solo albero, che però è un po' bassa. La più buona la scelgo quando mi scende e me la metto a molle, perché io ne ho anche da 4 anni fa, dentro la Tanegiana, ogni tanto me ne prendo un po' e me ne mangio, e poi sono purissime, però olio, olive di olio però, capito, quelli ce li ho sempre, e quest'anno me ne faccio altro un po' e già ce ne so, capito. Anche a essiccare vanno bene quelle neve adesso, le metti un imbarato, aglio, prezzemolo, le peperoncine sono bombo, non è così Tony. E allora Gian Maria è che non ne ha voglia di farle. E cosa faccio ormai? No, mi stasera siamo scesi e in terra è tutto pieno, però ce n'è molta guascia, molta punta, che qualcuna l'abbiamo scelto, abbiamo fatto un 4-5 kg e quella mettiamo a molle in acqua, capito? Ma ce ne sono parecchi, però tutte guaste, e allora bisogna scegliere le più buone e così via. Però 2 alberi soli, 2 soli, così che a me non mi piacciono le olive in mezzo al frutteto, capito? Ne avevo tirati 3 o 4, mi sembra, e le ho buttate in terra. Sono questi 2 che non mi danno fastidio, le ho lasciate, capito? Ok, riprendo io, visto che non lo prende nessuno. Certo, se tu la pensi così è giusto che faccia così, ci mancherebbe altro, voglio mai. No, volevo chiedere a Graziano, però dopo te lo chiedo, prima voglio far parlare a Tonino, che è da un po' in parcheggio. Avanti Tonino. Quest'anno è andata piena di olive, qua ci sono più olive che foglie, però sono tutte bianche e tutte le stanno macinando. E da poco me ne hanno regalato un bidone di olio nuovo, troppo verde, è troppo verde, però è buono. Ho capito, vabbè certo, ma anche a me, come stavo dicendo, non so se Boccati ha ascoltato, me ne hanno regalato 5-6 kg, abbiamo fatto i confettati e ciccia. Stavo dicendo, Graziano, tu presumi che all'incirca alla fine, quando raccogli tutte le olive, ne avrai 7 quintali, e con 7 quintali che macina ci può uscire? Quanti litri di olio ci possono uscire? Allora, con 5 quintali e mezzo, scuse, le foglie, il cazzoletto erano 5 quintali e 2, me ne sono usciti 80, sa, 85 erano. Sandro. Ah, ok. E ho 85, ho 85 litri. 85 forse, 16 mi sembra che mi ha dato. Non me lo ricordo bene, comunque una cosa del genere. Ho capito, ho capito. capito, sui 10 quintali più o meno. Beh, è una buona dose, vero Gio Mari, io non me ne intendo, però penso che sia una buona resa così, vero Gio Mari, tu te ne intendi? Non sono stato mai un appassionato a queste cose, no, non me ne intendo veramente. L'ho sentito più o meno come sta dicendo Graziano, ma non è che me ne intende. Se Mitolino sì se ne intende, perché lui è in un posto dove ce ne sono molti, e per cui qualche volta ne avrà fatti anche lui. Così è Tonino. Ma dite la verità, guarda, per il momento le olive sono verdi e la resa è poca. E lei, le olive quando sono diventano nere, allora sì che dà qualche resa in più. Perché io mi ricordo quando macinavo, andavo al mulino mio padre, ci avevamo l'olivetto, ne avevamo 200 alberi, allora era calcolata 13 kg, 13 kg di olive è una misura di... e dava il 4. Un po' giù. Ho capito, sì, beh certo, beh, indubbiamente quando sono più mature le olive ci sarà sicuramente più resa, questo è ovvio, suppongo, perlomeno così ragionandoci un attimino, suppongo che si possa essere così, come lo sta confermando anche Tonino, che quando non diventano nere allora la resa è superiore. Ho capito, vabbè, buono sapersi. Ma io sinceramente di campagna sono proprio negato e non ne capisco un'acca, proprio niente di niente. Perciò non posso assolutamente nemmeno dialogare quasi di campagna, ti puoi immaginare. Avanti Grazia, illuminaci. E per dirti, c'era un tipo di Giave, che lui c'è a metà Giave in alto. C'ha un olivetto e erano nere, dice, belle grossette. Le ha dato il 20 perché erano nere quelle lì, erano più cotte, capito, le olive. E gli ha dato a 20, gli ha dato. Caspita, e poi ne aveva due bidoni di chissimanni, no, di quei contenitori che c'hanno lì al mulino. Io arriva a resta, minuta e niente, per dire, io di quegli alberi in campagna ne ho due, e minuta ma sono tutte e due garghe, e ogni cultura di un buruchizio di lui, che su riesci. Ho capito, grazie, sì, beh certo, se c'è il frutto della pianta bisogna sfruttarlo, ci mancherebbe altro, gli alugrino, tanto se non ne va la cucina, bisogna che praticamente in terra, e tutti sporcano la campagna, invece in questo modo, con la consolata, la raccogli e ti fai l'uso, certo, e già è una buona, comunque, una buona resa, suppongo, 20 a quintale, dovrebbe essere una buona resa, non me ne intendo, ripeto, però suppongo che sia, perché ne ho sentito altri che addirittura dici, ma ha fatto 15, ma ha fatto 14 e così via, boh, io ma tu non ti posso dire né sì né no, che va bene, perché non me ne intendo, ma se mi stai dicendo non sia che hai quella resa, tanto hai guadagnato, vuol dire che è anche un buon frutto quello che hai lì in campagna, eh. Ok, avanti Torino. Io mi ricordo quando le coltivava mio padre le olive, nel periodo che doveva dare la medicina, le curava le piante e le olive rimanevano sino al mese di maggio. Ogni 15-20 giorni andava e le dava una cozzolata, quella che ne cadeva la raccoglieva. Per il momento opportuno in cui dava proprio a pieno frutto era il mese di aprile, quando le olive erano proprio che si vedeva che ti rimaneva l'olio nelle mani quando le raccoglievi. Allora 13 kg di olive ti davano 5 litri d'olio. Caspita, allora è una resa favolosa così, Tony. Caspita, non so io. Così era proprio una resa eccezionale. Bene, Gio Mari. Ma diciamo 30 anni fa non c'erano tutte queste malattie che oggi ci sono, io li vedo anche più sane, si medicava per eventuali queste che uscivano, che si pungevano, capito? Però non è che dava una medicina che dava adesso, oggi la medicina come nell'università è perché lo serve. Prima la medicina che dava una volta bastava per due mesi, così è Torino, diglielo. Ma infatti era una medicina che contro le mosche, oppure c'era quello che metteva una invece di curarle tagliava una bottiglia e la metteva al rovescio e ci metteva dentro l'olio balsamico, ci metteva, le mosche entravano dentro, le mosche dell'olivo entravano dentro e poi non riuscivano più, capito? E venivano e morivano. Allora la medicina non le dava, però chi non faceva col metodo davano le medicine che non sono medicine di quelle di adesso, perché nel periodo opportuno, quando le vedevi che erano già grandi, allora le dava la cura. Le dava la cura che ti portava proprio a darti il frutto alla resa. E durava, io mi ricordo che anche prima di morire mio padre, 10-12 anni fa, che c'aveva ancora il corso delle olive, in 200 alberi faceva la bellezza di, allora, 100, 200, 300, 400, anche 12.000 litri di, 12.000 litri d'olio. Sono tanti. Ebbene, evidentemente sapeva anche sfruttare bene la pianta, saperla sfruttare probabilmente lì era anche un terreno buono per le olive, allora ecco che la resa c'era. Ok, aspetta che faccio una chiamata a Antonio Barracuda, perché poc'anzi eravamo insieme qua, no? Tu eri fatto da Siano, e mi ha detto che accompagnava la figlia e sarebbe ritornato, ma a quanto sembra o non è ritornato o è all'ascolto. Antonio, sì. No, Antonio Barracuda non c'è. No, anche perché adesso cambiamo un attimino il discorso, poi magari se volete possiamo continuare anche a parlare di olive, di campagne, eccetera. Mi stava dicendo poc'anzi Antonio Barracuda che è intenzionato a promuovere una specie di bancarella così per poter incrementare il numero di CB in una 27, no? Facendo in questo modo, ad esempio, facendo questa piccola bancarella e contattando delle persone, anche quelle persone giovani che passano, e fargli ascoltare e addirittura parlare anche al baracchino, naturalmente facendo anche da interlocutore noi, che siamo a stazione fissa, per poter appunto cercare di incrementare il numero di CB. Sì, infatti io sono d'accordissimo, sarebbe anche una buona idea, io ripeto, io collaboro per quanto posso, nel limite delle mie possibilità, se c'è bisogno, perché noi c'è al limite possiamo fare una specie di stand, fatto se proprio è necessario fare uno stand, io quattro risorse mi posso anche piallare e fare quello che serve, o un tavolino, eccetera, eccetera. Fatto, però non mi impegno più di tanto perché io la mia età, questa è una cosa che dovete fare voi giovani, mettete d'accordo con qualche altro CB giovane e vedete un po' di riuscire a fare, e da parte mia avrete tutta la massima collaborazione. Poi, tanto più che adesso la sera ho lavoro, gli ho detto, e allora posso anche dedicarmi a questo. È una cosa che a me fa piacere, suppongo che faccia piacere anche a voi. E dimmi la tua impressione, Giovanni, qual è? Più, ma non sa quante persone si hanno provato in tante maniere, a Sassari specialmente è un po' difficile, e tu sai meglio di me che in Sassari non si riesce mai a fare niente, mai, magari nei paesi può succedere che riesce a fare qualche cosa, ma a Sassari è un po' difficile. Poi specialmente per l'era di adesso, fatto i telefonini, i computer, questi robe varie, stava un po' difficile, ma provare a tentare a vedere un po'. po', non lo so, mi sembra un po' difficile comunque giù, non lo so, in merito a quanto sento un bel di gente dicendo che ma che se ne frega, hanno altri pensieri per la testa giù, hanno altri pensieri, non stanno pensando a baracchino, ma io me ne accorgo anche, i nipoti, no, mi vedono, dice ma no, come fai, dice, a stare così ore e ore, dice, ascoltando, oppure chiacchierando, cioè, non lo so. Loro sono puntati per il computer, non ci pensano a queste cose, capito giù? Oh, fantasci pure che le cose siano diverse, non lo so giù, ecco. Ok, Maria, infatti anch'io sono titubante per quanto riguarda i giovani di oggi che di mettersi in frequenza come noi che ci siamo tantissimi anni, ma comunque io non l'ho fatto, se è una cosa che puoi fare, farlo pure, perché ripeto, tentare non nuoce, se hai tempo di farlo, farlo e basta, se poi funziona, funziona, se non funziona, pazienza, vuol dire continueremo a stare noi, quelli che ci siamo e quelli che ci saranno in futuro, frequenza, però no, perché lui non mi ha raccontato, dice, qui delle volte vengono amici di mia figlia, dice, vedono questa cosa, dice, questo apparecchio, e si incantano, oh, che bello, anche a me piacerebbe, eccetera, eccetera. Ma tra l'altro lei, guarda, il proposito è buono, non ci sono dubbi, io non dico di no, e penso che nessuno possa dire che non sia un buon proposito quello che mi stai proponendo. Provaci, ripeto, io da parte mia, con i miei 70 anni, la mia collaborazione ce l'avrai. Io mi auguro che riesca comunque, però come tu hai detto poc'anzi, io sono molto titubante a riguardo, perché so benissimo come funzionano le cose a Sassari e Giovanni, e pertanto non mi illudo, ecco, non mi illudo che ci possa essere una riuscita, ma speriamo, lui è giovane ancora, Antonello, e ancora se che riesca a coinvolgere magari anche le sue amicizie, eccetera, eccetera, e chi lo sa, Giovanni, vedremo, staremo a vedere. Lui ha detto che si interessa e poi guarda che probabilmente ci vorrà anche un permesso per fare certe cose, tipo bancarella, ma non per niente, perché effettivamente dobbiamo vendere niente, no, cioè il concetto era questo, di portare magari qualcuno di noi, o ognuno di noi, un apparecchietto e metterlo così, no, in esposizione per attirare la gente e soprattutto i ragazzi, in modo che loro possano appassionarsi al baracchino. Guarda, per fare una cosa del genere probabilmente è necessario anche un permesso, io non lo so, no, non per niente, perché tu sai benissimo con tutto quello che circola oggi e vedendo un assemblamento di persone le autorità possono pensare che stiamo vendendo chissà cosa, capito? Prova, chiedi, informati, tu che hai, se hai del tempo e sei giovane, fallo pure, vediamo un po' cosa succede. Ok, avanti, tu cosa ne pensi, Tony? Ma a dirti la verità, come potrebbe andare bene, potrebbe anche andare male. Io mi ricordo quando ero piccolo, all'età di 8-9 anni, c'era un vicino di casa che era un CB, adesso non c'è più e se n'è andato. Lei aveva il coso, la Grand Prix, i televisori, sai come erano prima, tutti a valvole, ogni volta che agganciava ti mandava in tilt la televisione. E io quando lo sentivo, sentivo modulare, ci andavo a casa sua, bussavo, facevo entrare, guardavo le apparecchiature che c'aveva. All'epoca vecchi apparati come ci sono adesso magari non ce n'erano, però aveva una signora stazione, ti dico che c'aveva anche una signora segretaria che... E lì mi ha influenzato, ho detto, quando sarò più grande, ho detto di piazzarmi anche una stazione, ma hai visto, e piano piano ci sono riuscito, e ci sono già 25 anni in frequenza, perché all'epoca allora gente ce n'era, non come adesso che da quando è entrato questo Facebook o roba del genere, il computer e la 27 è andata in avaria, però a me mi è sempre piaciuto, specialmente la mattina, io faccio il conto che l'accendo alle 5. Chiami che non ti risponde nessuno, sino a lungo, allora prendo e spengo tutto, perché non c'è più nessuno, però prima allora per tutti i canali c'era sempre gente. Io le auguro che Antea Barracuda le vada bene, questo programma che c'è in mente, e spero in bene. Ok, infatti io glielo ho detto, Antonio, fallo, perché è un buon proposito, gli ho detto, è una cosa che suppongo che faccia piacere un po' a tutti, se si riesce a rifare così popolare la frequenza, perché sinceramente sta andando a ramengo, veramente, anch'io delle volte lascio l'apparato acceso tutta la sera, sento che non c'è nessuno, allora cosa faccio? Magari me ne scendo anche giù, mi guardo la televisione insieme a mia moglie, eccetera, eccetera, e allora ciccia, però lascio anche il volume alto, in modo che se qualcuno entra lo sento, allora salgo immediatamente per poter rispondere. Invece no, a serata intere, ore, sempre acceso. Scrivi di bene, anche ti dirò di più, mi ha anche Giomaria già l'ha visto, in bottega ho un Inter che ho 34S, sempre sintonizzato su questo canale, con un'antenna così appoggiata al muro, però se qualcuno entra già lo sento. All'intere giornate di lavoro, non sentire un'anima, ma nemmeno i camionisti più stanno entrando, anche loro si sono ridotti di moltissimo come numero al baracchino, non lo so cosa sta succedendo, per quale motivo stanno abbandonando, non lo so. Vabbè, sentiamo Graziano cosa ne pensa lui. Avanti Graziano. Ma io penso che questa generazione di adesso non era tutti nuda. A chi ha giudizio qua sono venuti amici, amiche di miei figli e mi hanno detto che sono antiquariato, che adesso col computer è tutta un'altra cosa. Col computer ti vedi anche se sei organizzato bene, ti vedi la faccia con chi stai parlando e tutto, capito? Dunque, io penso che per il baracchino, quando morimo tutti noi, è finita, proprio, penso proprio così. Perché oramai con la tecnologia che c'è, con il computer, io vedo la mia figlia qua, anche molte volte ci parlo anche di altri, trattiamo più che tanto di lui? Sì. No, lo tu mi chiama. Ok, non so come fare taschino, non è facile, non è facile, è costo a lungo, non è più che è l'abitudine con la mia musica, non è che se contare. Ma io ti ho detto non muovere per lì, ma era una giornata, era una giornata, era che era quando le due ragazze c'era un era proprio per raccogliere i telefonini, c'era niente, adesso c'hanno tutto a casa, tutto, c'hanno i giochi, ma cos'è che non c'hanno oggi la gioventù, per cui i baracchini, ma mi sembra un po', non lo so, figliami, io non, guarda, anch'io sono stanco, forse perché ci sono troppo, e per cui certe volte sono, me l'ho usato, prima se io questo piacciono, quindi è andato, che così proprio, che due minuti per certe punto. Un attimo che mi hanno chiamato giù. Ok Tony, d'accordo. Sì, in effetti così, Giovanni, cosa vuoi fare? Diciamola così, allora la colpa è la nostra che siamo nati prima. Tutto nell'era buona tornata nel baracchino, per la persona che era al baracchino, invece Giovanni e oggi non hanno nessuna voglia. Però Giovanni, sai cosa ti dico? Io vedo che quando c'è preparazione la gente c'è, evidentemente, o è solo in Sardegna che è diminuita la passione per il baracchino, questo non lo so. Perché quando c'è la preparazione da fuori arrivano e come arrivano, io anche da poco, guarda, quando sarà un 20 giorni fa, 25 massimo, non di più, addirittura sono arrivato in Florida, ragazzi, in America, ma ben mesi, casi eccezionali sono quelli. E qualche giorno prima me l'aveva detto addirittura a Natalino, perché Natalino veniva e viene intervistato a trovarmi, no? Ma beh, lo sai, dice che sono riuscito a fare il collegamento addirittura dalla macchina, ho parlato in America, come mai? Non lo so, la preparazione. In effetti è vero, parlato con la città di Tampa, una praticamente in Florida, vicino al Golfo del Messico, ti puoi immaginare, insomma, lì. Vabbè, sono casi già nati eccezionali queste. Ecco, quando si fanno collegamenti qui a lunga distanza ti appassiona ancora di più, nonostante che noi ormai siamo santissimi del baracchino, però ci piace sempre e ci rimaniamo. Ho parlato con Porto Rico anche in quei giorni stesso, insomma, stiamo parlando veramente di posti lontanissimi. E chi lo sa che un domani non rinasca la passione anche per i giovani, non lo so, saremo a vedere, Giovanni, cosa vuoi che ti dica. Vai, grazie. Registrato il brecco, può essere pure che più in là, quando non ci siamo noi, se ripopoli la rotta, non so cosa dire, perlomeno. A me, quando mi hanno visto buricare a manito che l'antiquariato, i giovani, figura, poi i giovani di oggi, basta mangiare, la pula della birra, la siringa bucciacca e tutto fatto. Vabbè, avanti il break. Avanti il break? Avanti il break, chi è? Sentiamo bene, guarda, poc'anzi si è arrivato meglio, come quando hai fatto break ti abbiamo sentito bene, adesso non ti sentiamo bene, forse sei in macchina, non so, vedi un po' distorti eventualmente dalla posizione dove sei, trovare una posizione migliore, perché arrivi troppo basso, non si capisce quello che dice. Io ti rimando il microfono, vediamo un po' se ti rimetto il microfono, vediamo un po' se ti sentiamo adesso, vai? K2, sì, adesso ti ho ascoltato bene, non c'è segnale, però la radio mi è arrivata. Sono in compagnia di Gian Maria e di Graziano. Avanti Gian Maria, mi hai ascoltato K2? Sì, l'ho sentito abbastanza bene anche. Buonasera, ben risentito dopo tanto K2. E allora, tutto bene, è messo a posto, sì? Tu l'hai comprato il computer, l'hai comprato il telefonino moderno, l'hai comprato i giochi e il baracchino non lo usi. Perché adesso prima era l'uomo che andava a cercare la donna, adesso è la donna che viene a cercare l'uomo, così che si tiene impegnato, per cui il baracchino lo lascia da parte, meglio l'altra faccenda. Le cose stanno migliorando in tante cose più moderne, l'elettronica oggi ha superato tutti, l'apparecchio, il baracchino, esisteranno sempre magari, però poca gente perché ci sono troppe altre cose molto più importanti, molto più istruttivi, e allora pensano a quelle cose, non al baracchino, tutto lì, e come ha detto Graziano, tu sei un pesante quariato, Graziano. E allora, è proprio così. Lo vedi, ti ricordi a quel avevo venduto quel baracchino qua al canale portante? Beh, all'usata quando mi l'ho venduto, non l'ho mai inteso in treni e nella ruota, per nulla, ho detto, ma cosa si raccupera da papà a tenere un garage? Non è mai adoperato, il contratto gliel'ho chiesto e non c'ho tempo, e allora cosa ti recupera da papà a tenere la rimuita? Per dirti no, vedi, me la va a vista a me qua, non è tutto, e me lo vendi, uno gliel'ho venduto, beh, non l'ho mai inteso, mai entrato. E la gente sentito oggi come oggi è un bel strano pure, boh. E prendi Giulio. Ok, grazie, in effetti. Se non ne hanno voglia loro, figuriamoci. Sai cosa è grazie? Il problema è questo, la radio si usa, o perlomeno la usa solo esclusivamente chi è veramente appassionato. Se no, per fare le due chiacchiere così, la gente magari preferisce farsi di persona, con gli amici che frequentano, eccetera, eccetera. E non è pure la vita in mano. Però la cosa che è più giusta è proprio quella che ha detto Gio Maria, che sono i femmini che andranno a cercare l'uomini oggi, anziché l'uomini a cercare i femmini. È giusto. Però c'è da dire questo, che prima c'erano anche le donne in frequenza, adesso non ce n'è più nemmeno una. Io sono anni senza sentire una donna in frequenza. Non ci sono più motivazioni, nemmeno per loro, cosa vuoi dire mica? Forse si sono allontanati perché in passato c'era gente che si comportava male, non lo so, questo è un fatto sta che oggigiorno è così, non ci sono persone diciamo veramente appassionate, e invece noi ci siamo rimasti, che significa che la passione ce l'abbiamo ed è tanta, perciò tutto lì, su cosa volete dica. Aspetta, dimmelo, dimmi, buonasera, mi sentita. Buonasera a tutti, e vi so qui io Mari, quindi. Vabbè, ma anche tu hai disaltato, Magari prima ti sentivamo molto più spesso, magari sa che tu magari sarai impegnata, senz'altro, come anche noi abbiamo altre cose da fare, per cui siamo stanchi e ci siamo troppo attaccati a questi agenti e allora lo stiamo abbandonando per quello. Magari i giovani non hanno voglia perché hanno altre cose molto più importanti e non lo cercano nemmeno il baracchino, capito? Però ogni tanto qualche donna già si affaccia, come tu ben sei entrata adesso che ci fa piacere. Per risentita a Roma. Ehi, Gio Mario, ma cosa vuoi fare? Tu compagni la babysitter, a me mi vedi? E da voi la babysitter a Edo? E sei passata qua, quando mi sembra una... nemmeno una settimana, si passava in carrozzella con un bambino andando verso le scuole là, ma non ti sei nemmeno girata. Ehi, già ho guardato, ma non ho visto nessuno, Gio Mario, io quando cammino appaio tutta la zona. No, la verità non ti ho visto, capito? Infatti la testa in giù, magari la testa per il bambino, la cammina dopo dice ferma una signora lì, però era affacciato, io non ti ho disturbato perché stavi parlando con questa signora, tutto lì. Oh, comunque, ben risentita, vai Giulio. Ok, ciao Lucy, ben ascoltata, non per tanto tempo. Anche a te devo sgridarmi, perché anche tu sei assenteista al baracchino, io ero anni che non ti ascoltavo più. Allora chi vede tuo marito al baracchino? Ti sei praticamente sentita chiamare in causa perché stavamo parlando di donne, di la verità, ho bisogno che baglienti, di la verità Lucy. Giulio, la capisci? Allora, prima ci hanno rubato a me i nipoti, e da voi ci hanno rubato a Edo pure, no? No, non è possibile. Sempre la solita, sì. Simpatica. Oh, è lui. Lascia, non avevo più niente, non ti preoccupare. Cosa dice Mario? Niente tu hai inteso? No, non stavo ascoltando, non ho sentito. Dai che fa Rosy, oia! Non è inteso Gio Mario cosa tu dici, le dice a Giulio. Allora, prima ci hanno rubato a me i nipoti, e dopo ci hanno rubato a Edo, a chi è che tu rinfatti, non è nato come se dica, chi tanto si ricordi la stampa di rubura da Edo, la tribunile è una fattizia. E per forza un tuppiante che si fungo le scia, lo credi a? Allora, con tutta la tua parola che ci fa... Adesso si era contento di tutta la parola che si fa, io non credo io. Puro fumo, si allora, ci vedo bene a culo. Allora si fa una cosa, mi vanno lì a tre nipoti, vado un po' di pulaetto che non gli hanno le cose male, così ti date una mano, ti date, non lo so io. E poi imparano anche, compreso. Ma come ti fai a imparare, Giulio? Senta, se te lo sapo di bene, ti mi fai di riccardo e tu puro. E mi sto travaglio mio, che mi fanno le altre. E sto con i buoni, una bassa di fissa, tu non vuoi attaccare con i buoni. Proprio di casa, non c'è mica la fieggia. Oh, grazie, no, non mi teso niente, io non ti preoccupare, io non ci teso niente, vai già Marì. Occhiato sonato, ripreso attimino giù. Grazie. Allora, la verità, cioè, quando ti mangi tutto quanto il tuo bavarone, in effetti, non vuoi che ti vasi, non è possibile. ma se fai così, fai travagliare tutto a voi, se vai travagliarmi. Chi sarà scusa, non ci malligia, no? Ah, non vuoi bufare tu, Thank you. giù. Ciao K2, ciao anche a Graziano e a Torino, ciao. Ok, ciao, ciao Giovanni, ciao, ciao, ciao K2, alle prossime, ciao.